stiamo portando avanti all'interno del nostro Fujiko Factory, delle rubriche a cui crediamo molto, ad esempio Fujiko in concerto, The Show Must Go On, ma soprattutto Please Don't Stop the Music, per dar voce a chi voce non ce l'ha, ma soprattutto per dimostrare che la musica resiste, esiste e deve comunque avere maggior attenzione. Ma per farci raccontare tutto abbiamo una giornalista della Dire, Sara Forni, agenzia di stampa nazionale, che insieme a Federica Mingarelli ha pubblicato un articolo inchiesta con l'obiettivo di ricostruire attraverso la voce di tre gestori di tre locali bolognesi la situazione che stanno vivendo le sale da concerto ferme ormai da mesi. Ma appunto l'abbiamo in collegamento telefonico con noi. Ciao Sara. Ciao. Ciao. Benvenuta sui 103.1, benvenuta a Fujiko Factory, e io inizierei già, insomma, facendoti i miei personali, ma penso anche di tutta la redazione musicale, i complimenti per questo articolo inchiesta scritto insieme appunto a Federica Mingarelli. Sì, grazie mille. Ci tenevo subito a precisare che l'articolo l'abbiamo realizzato in tre, anche insieme, sì, a Davide Landi, che è il nostro fotografo, e che sono comunque, le foto sono parte fondamentale dell'articolo, perché trasmettono proprio quella sensazione che noi abbiamo definito congelato, cioè quindi questo vuoto, i locali sono vuoti, insomma. E infatti effettivamente si parte proprio dalle immagini. Io ammetto che la prima cosa che mi ha colpito sono appunto state queste immagini che fanno vedere appunto un luogo congelato, un luogo fermo, dove in realtà in quei luoghi prima la gente si divertiva, stava in compagnia, la musica andava avanti, quindi c'era gente che lavorava e gente che appunto viveva di musica, cosa che appunto al momento, a causa dell'emergenza sanitaria, molti settori lavorativi sono in forte difficoltà economica e la musica è uno di questi settori. Quindi diciamo che risulta essere uno dei campi più colpiti, perché oltre a chi fa e chi produce musica, con il blocco di questo settore sono stati colpiti anche i cosiddetti addetti ai lavori, così come tutti quegli spazi che da sempre ci hanno abituato a vivere la musica dal vivo. Ora sono chiusi e le persone che stanno dietro a questi progetti sono senza lavoro e privi di garanzie. Quindi un po' il lavoro di redazione che noi stiamo facendo in questi mesi è dar voce a chi voce non ce l'ha, e mi sembra molto anche il vostro articolo, appunto, Viaggio nei live club bolognesi congelati dalla pandemia ma la musica continua. Quindi vi chiediamo un po', insomma, com'è nata l'idea di questo progetto, di questo articolo. Sì, allora l'idea è nata proprio per dare voce a queste realtà che ultimamente possiamo dire, o almeno mi sembra che non se ne stia parlando molto. C'è stata la grande discussione sui ristoranti, sui locali, i bar, però pare che invece i club, la musica live siano un po' messi da parte. Quindi abbiamo detto, ci siamo chiesti che appunto non fosse il caso di provare a risollevare anche un po' il dibattito su questo tema, e per farlo abbiamo incontrato tre realtà molto importanti a Bologna: il Curvo Club, il Locomotive e il Circolo Dev, che in realtà è un locale che ha aperto proprio all'inizio della pandemia, quindi sono riusciti a fare pochissime serate, però hanno tanta voglia, insomma, di ricominciare. Quindi siamo andati a vedere cosa stava succedendo all'interno di questi locali, e abbiamo scoperto che quello che sembra apparentemente appunto congelato, in realtà si sta muovendo, cioè si stanno già preparando per quella che si auspica possa essere una stagione 2021 migliore di quella del 2020. Anche perché effettivamente diciamo che quest'estate, l'estate 2020, uno spiraglio di musica dal vivo c'è stata, per poi in realtà affossarsi subito. Mi viene in mente ad esempio il Festival Bolognese, tutto molto bello, in un qualche modo è riuscito comunque a far qualcosa, però insomma non è stato semplice, ma comunque appunto poi da settembre tutto si è fermato. Poi noi spesso all'interno di Fujiko Factory stiamo parlando tanto di Sanremo, perché comunque vuoi o non vuoi Sanremo quest'anno probabilmente potrà anche dimostrare che la musica dal vivo, e quindi anche uno spettacolo scenico, una performance dal vivo con addetti ai lavori, se messo appunto in determinate condizioni, si può fare. Quindi sarà sicuramente un messaggio positivo anche quello. Infatti sì, speriamo che si possa fare, perché appunto circolano anche delle voci che parlano di un possibile slittamento o anche addirittura di un rinvio di Sanremo, però insomma speriamo che possa essere un segnale importante. E appunto, come hai detto tu, quest'estate è tutto molto bello e funzionato. Abbiamo incontrato i gestori del Locomotive che, grazie allo spazio dell'Arena Puccini, sono riusciti a fare una trentina di concerti quest'estate. Ogni concerto ospitava un massimo di 400 persone. Io ho partecipato ad un paio di date e devo dire che sì, erano concerti diversi, si stava a sedere e mancava magari quello a cui siamo abituati, no, quando si va ad un live, però è stato comunque molto, molto bello, e quindi è un sistema che può funzionare. Anzi, devo dire che quando la settimana scorsa sono entrata al Locomotive, il Locomotive aveva già preparato questa stessa formula anche nello spazio interno, quindi al chiuso, con solamente 100 posti. E però purtroppo è arrivato il DPCM a novembre, che invece ha bloccato del tutto appunto gli eventi all'interno degli spazi, quindi non è stato possibile, però erano già pronti per farlo. Sì, e oltretutto in questi mesi si parla anche di riapertura, e noi speriamo che questa venga il prima possibile, però comunque la riapertura, come dicono anche i gestori di questi locali che voi avete intervistato, implica degli investimenti sia per la messa in sicurezza dei locali, ma anche e soprattutto forse per organizzare con mesi di anticipo una programmazione. Il tutto però diciamo che è contornato da uno stato di incertezza, perché non si sa quando effettivamente si potrà davvero riprendere le serate dal vivo. E nel tuo articolo, soprattutto nei video che compaiono nelle immagini, viene chiesto ai gestori se sono favorevoli all'idea di Bonaccini del patentino o passaporto vaccinale. Tu ci vuoi raccontare meglio di che cosa si tratta? Diciamo che appunto abbiamo pensato un pochino di reinterpretare la proposta di Bonaccini, che un paio di settimane fa nemmeno aveva lanciato il passaporto vaccinale, avanzando appunto la proposta di permettere l'ingresso alle manifestazioni. Inizialmente si trattava di le manifestazioni sportive, ma non solo, comunque le grandi manifestazioni, di entrare soltanto a chi dimostra di avere fatto tutte le vaccinazioni al Covid. E quindi Federica ha subito chiesto ai rappresentanti, ai gestori del Covo, che cosa ne pensassero, cioè la possibilità di introdurre un patentino vaccinale a chi la possibilità appunto di poter partecipare ai concerti se si è vaccinati. E diciamo che la risposta dei locali che abbiamo incontrato è sempre la stessa, cioè è un'idea accettabile, cioè ci può stare purché si riparta con la musica live. Quindi diciamo che non è proprio una chiusura totale, anche se comunque si spera che non sia questa la soluzione, cioè le soluzioni devono essere diverse, cioè i locali devono avere l'opportunità e anche l'opportunità, insomma, e anche il supporto economico per poter mettere in sicurezza i locali. Anche perché sennò oggettivamente le persone che in questo momento potrebbero andare ai live sarebbero praticamente solo sanitari, cioè gente che sono veramente pochissime le persone che in questo momento hanno potuto appunto fare il vaccino, o comunque diciamo che principalmente al momento c'è solo la prima fase di vaccino, quindi manca la seconda, quindi è una soluzione che già comunque di per sé richiederebbe tantissimo tempo, oltre al fatto che ad esempio io personalmente vorrei andare a un concerto e probabilmente io magari sarò vaccinata fra un anno, fra sei mesi, quindi sicuramente non è la soluzione migliore. Esatto, sì, appunto siamo coetanee, quindi penso che anche perché poi i principali fruitori magari di questi locali sarebbero appunto gli ultimi che potrebbero partecipare se la condizione fosse un passaporto vaccinale, chiamiamolo così. Quindi speriamo che non sia questa la soluzione, perché sarebbe molto molto limitante. Sì, molto limitante, e tra l'altro diciamo che ovvia al problema principale, ovvero quello della mancanza di sostegno da parte delle istituzioni, perché è stato diciamo varato il decreto ristori che garantisce comunque a questi locali una forma di aiuto, però ho visto nelle interviste che i gestori dei locali effettivamente dicono che comunque non è sufficiente perché non ce la fanno. Sì, nessuno delle tre realtà che abbiamo incontrato ha parlato di ristori sufficienti, cioè quello che emerge appunto è che questi bonus non siano serviti ad attuare una programmazione futura, cioè ma in alcuni casi nemmeno a riuscire a pagare l'affitto proprio di gestione dei mesi. Ad esempio i ragazzi del DES hanno raccontato che l'affitto è stato abbassato per loro soltanto a dicembre e a gennaio. Il Locomotive ha parlato di ristori assolutamente insufficienti, e invece il Covo, che tra l'altro l'ultimo concerto che ha fatto è stato il 21 febbraio del 2020, quindi quasi un anno fa, appunto loro non sono assolutamente appunto soddisfatti, e anzi la proposta che loro vogliono è quella che sia il comune e comunque l'amministrazione a sostenere la realtà, motivo per cui ad esempio hanno deciso di non fare una campagna di crowdfunding, come ad esempio, non lo so, mi viene in mente il Freakout invece l'ha fatta. E, insomma, ogni realtà poi chiaramente è libera di decidere anche in base alla propria condizione, però l'appello che arriva da questo settore è appunto quello di essere sostenuti, ma in un modo anche più strutturale, cioè qualcosa che possa poi andare avanti anche nel tempo, per tutta la stagione. E effettivamente anch'io stavo pensando che in questo anno sono state tante le richieste di crowdfunding, che però effettivamente il problema non lo risolvono, perché non siamo noi fruitori della musica a dover trovare una soluzione, ma appunto è chi ci governa e chi comunque detta legge, che deve anche tener conto che un anno senza musica, ma comunque appunto un anno senza addetti ai lavori, che poi sono tantissimi, perché ovviamente non stiamo parlando solo, anche se ovviamente in gran parte, di musicisti, cantautori, stiamo parlando comunque anche ad esempio di tutte delle mansioni, come ad esempio anche giornalistiche, i fotografi, cioè è un ambiente veramente a 360 gradi che sta risentendo comunque di questa situazione. Sì, assolutamente, perché comunque quando pensiamo a un concerto non dobbiamo pensare soltanto a chi sale sul palco e a chi gestisce il locale, appunto come hai detto tu ci sono tantissime figure, e la mobilitazione, insomma l'emergenza comunque di chi lavora nel settore dello spettacolo, perché noi qui stiamo parlando della musica, però la stessa situazione tocca ai teatri, tocca alle fondazioni, il cinema, insomma è una questione di cui si parla tanto, ma forse mai abbastanza, perché ho come l'impressione che forse sia un po' un aiuto interno, cioè che chi fa il mestiere si sta cercando di aiutare. Non so, mi viene in mente ad esempio la raccolta fondi di Scena Unita, certo, quella promossa da Fedez, cioè che magari anche ha, non so, sollevato delle critiche, però intanto è magari un musicista che muove qualcosa per aiutare altri musicisti, insomma. No, ma infatti poi in questo anno sono tante le cose che probabilmente ci ha insegnato, come ad esempio insomma Scena Unita diretta da Fedez, ma in realtà sono tantissimi, sono penso più di 100 sì, nomi che hanno deciso, ma proprio di tasca propria, di donare dei soldi o comunque di trovare delle soluzioni, e fa però in realtà molto ridere, perché non sarebbero gli artisti stessi a dover trovare una soluzione, ma qualcuno più in alto. Però insomma è bello che in realtà in questo momento radio e giornalismo si fondono verso comunque un obiettivo comune, che è dar voce a queste persone che hanno forse ancora troppa poca voce. Però noi ti ringraziamo, Sara Forni, per essere stata con noi, e insomma portiamo avanti ancora questo articolo, Viaggio nei live club bolognesi congelati dalla pandemia ma la musica continua, appunto con l'augurio che la musica possa davvero continuare, che si possano davvero trovare delle soluzioni migliori. Grazie mille e grazie a voi per il lavoro che fate, insomma, perché gli intenti sono gli stessi, i nostri e il vostro, che state facendo da molte settimane. Grazie mille.